Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Il giardino dei Finzi Contini, di Giorgio Bassani. La tomba dei Finzi Contini era grande, massiccia, proprio imponente. Una specie di tempio vagamente antico e vagamente orientale, come se ne vedeva nelle scenografie dell'Aida e del Nabucco in voga nei nostri teatri d'opera fino a pochi anni fa. In un altro cimitero, come per esempio nell'attiguo Camposanto Comunale, un sepolcro di tali pretese non avrebbe affatto stupito ed anzi, confuso nella massa, sarebbe forse passato inosservato. Ma nel nostro era l'unico. E così, per quanto sorgesse assai lontano dal cancello d'ingresso e precisamente in fondo a un campo abbandonato dove da oltre mezzo secolo non si interrava più, faceva spicco, saltava subito agli occhi. Ad affidarne la costruzione a un distinto professore d'architettura, responsabile in città di molti altri scempi contemporanei, risultava essere stato Moisè Finzi Contini, bisnonno paterno di Alberto e Micole, morto nel 1863, poco dopo l'annessione dei territori delle legazioni pontificie al Regno d'Italia e la conseguente definitiva abolizione anche a Ferrara del ghetto per gli ebrei. Grande proprietario terriero, riformatore dell'agricoltura ferrarese, come si leggeva nella lapide che la comunità a eternarne i meriti di italiano e di ebreo aveva fatto affiggere lungo le scale del tempio di via Mazzini in cima al terzo pianerottolo, ma dal gusto artistico logicamente non troppo coltivato, una volta presa la decisione di istituire una tomba sibi et suis, doveva poi aver lasciato fare. Gli anni parevano belli, floridi, tutto invitava a sperare, a osare liberamente. Travolto dall'euforia per la raggiunta eguaglianza civile, quella stessa che, da giovane, all'epoca della Repubblica Cisalpina, gli aveva consentito di far suoi i primi 1000 ettari di terreno di bonifica, era comprensibile come il rigido patriarca fosse indotto, in quella circostanza solenne, a non lesinare nelle spese. Molto probabilmente al distinto professore d'architettura era stata data carta bianca. E con tanto e simile marmo a disposizione, candido di Carrara, rosa carne di Verona, grigio maculato di nero, marmo giallo, marmo blu, marmo verdino, costui aveva a sua volta letteralmente perduto la testa. Ne era venuto fuori un incredibile pasticcio, in cui confluivano gli echi architettonici del mausoleo di Teodorico di Ravenna, dei templi egizi di Luxor, del barocco romano e persino, come palesavano le tozze colonne del peristilio, della Grecia arcaica di Cnosso. Ma tant'è. A poco, anno dopo anno, il tempo che, a suo modo, aggiusta sempre tutto, aveva provveduto lui a mettere accordo in quell'inverosimile mescolanza di stili eterogenei. Moisè Finzi Contini, detto qui tempra austera di lavoratore indefesso, era scomparso nel 63. La di lui moglie Allegrina Camaioli, angelo della casa, nel 75. Nel 77, ancora giovane, seguito a 20 anni di distanza nel 98 dalla consorte Josette dei baroni Artom del ramo di Treviso, l'unico loro figlio, dottor ingegner Menotti. Dopodiché, la manutenzione della cappella, che aveva accolto nel 1914 un solo altro membro della famiglia, Guido, un fanciullo di 6 anni, era venuta chiaramente a mani via via meno attive a ripulire, a rassettare, a riparare ai danni ogni volta che ce ne fosse bisogno e soprattutto a contrastare il passo al tenace assedio della vegetazione circostante. I ciuffi d'erba, un'erba scura, quasi nera, di tempra poco meno che metallica, e le felci, le ortiche, i cardi, i papaveri, erano stati lasciati avanzare e invadere con licenza sempre maggiore. Di modo che nel 24, nel 25, a una 60 anni dalla sua inaugurazione, quando a me, bambino, fu dato di vederla le prime volte, la cappella funebre dei Finzi Contini, un vero orrore, non mancava mai di definirla mia madre, alla cui mano mi tenevo, si mostrava già pressappoco come è adesso, che da tempo non è rimasto più nessuno direttamente interessato a occuparsene. Mezzo affondata nel verde selvatico, con le superfici dei suoi marmi policromi, in origine lisce e brillanti, rese opache da bigi e accumuli di polvere, visibilmente menomata nel tetto e nei gradini esterni da soleoni e gelate, già allora essa appariva trasformata in quell'alcunché di ricco e di meraviglioso in cui si tramuta qualunque oggetto lungamente sommerso. Chissà come nasce e perché una vocazione alla solitudine. Sta di fatto che il medesimo isolamento, la medesima separazione di cui i finzi contini avevano circondato i loro defunti, circondava anche l'altra casa che essi possedevano, quella in fondo a Corso Ercole Primo d'Este. Immortalata da Giosuè Carducci e da Gabriele D'Annunzio, questa strada di Ferrara è così nota agli innamorati dell'arte e della poesia del mondo intero che ogni descrizione di essa è superflua. Siamo, come si sa, proprio nel cuore di quella parte nord della città che fu aggiunta durante il Rinascimento all'angusto borgo medioevale e perciò appunto si chiama Addizione Erculea. Ampio, diritto, come una spada dal castello alla mura degli angeli, fiancheggiato per quanto è lungo da brune molidi dimore gentilizie, con quel suo lontano, sublime sfondo di rosso mattone, verde vegetale e cielo che sembra condurti realmente all'infinito, Corso Ercole Primo d'Este è così bello, tale è il suo richiamo turistico, che l'amministrazione socialcomunista, responsabile del comune di Ferrara da quasi 15 anni, si è resa conto della necessità di non toccarlo, di difenderlo con ogni rigore da qualsiasi speculazione edilizia o bottegaia, insomma, di conservarne integro l'originario carattere aristocratico. La strada è celebre, inoltre sostanzialmente intatta, e tuttavia, per quel che si riferisce in particolare a casa Finzi Contini, sebbene vi si acceda anche oggi da Corso Ercole I, salvo però per raggiungerla dover poi percorrere più di mezzo chilometro supplementare attraverso un immenso spiazzo poco o nulla coltivato, sebbene essa incorpori tuttora quelle storiche rovine di un edificio cinquecentesco, un tempo residenza o delizia estense che furono acquistate dal solito Moisè nel 1850 e che più tardi dagli eredi, a forza di adattamenti e restauri successivi, vennero trasformate in una specie di maniero neogotico all'inglese, ad onta di tanti superstiti motivi di interesse, chi ne sa niente, mi domando. Chi se ne ricorda più? La guida del touring non ne parla e ciò giustifica i turisti di passaggio. Ma a Ferrara stessa, nemmeno i pochi ebrei rimasti a far parte della languente comunità israelitica hanno l'aria di rammentarsene. La guida del touring non ne parla, e questo è male, senza dubbio. Però siamo giusti. Il giardino, o per essere più precisi, il parco sterminato che circondava Casa Finzi Contini prima della guerra e spaziava per quasi 10 ettari fin sotto la Mura degli Angeli da una parte e fino alla barriera di Porta San Benedetto dall'altra, rappresentando di per sé qualcosa di raro, di eccezionale. Le guide del touring del primo Novecento non mancavano mai di darne conto, con un tono curioso, tra lirico e mondano. Oggi non esiste più. Letteralmente. Tutti gli alberi di grosso fusto, tigli, olmi, faggi, pioppi, platani, ipocastani, pini, abeti, larici, cedri del Libano, cipressi, querce, lecci e perfino palme ed eucaliptus, fatti piantare a centinaia da Josette Artom, durante gli ultimi 2 anni di guerra, sono stati abbattuti per ricavarne legna da ardere e il terreno sta già tornando lentamente come era una volta, quando Moisè Finzi Contini lo comperò dai marchesi Avogli, uno dei tanti grandi orti compresi dentro le mura urbane. Resterebbe la casa vera e propria, se non che il grande e singolare edificio, assai danneggiato da un bombardamento del 44, è occupato ancora adesso da una 50ina di famiglie di sfollati, appartenenti a quello stesso misero sottoproletariato, non dissimile dalla plebe delle borgate romane, che che continua ad ammassarsi soprattutto negli anditi del palazzone di via Mortara. Gente inasprita, selvaggia, insofferente. Qualche mese fa, ho saputo, hanno accolto a sassate l'ispettore comunale all'igiene che c'era andato in bicicletta per un sopralluogo, i quali, allo scopo di scoraggiare ogni eventuale progetto di sfratto da parte della soprintendenza ai monumenti dell'Emilia e Romagna, sembra che abbiano avuto la bella idea di raschiare dalle pareti anche gli ultimi residui di pitture antiche. Ora, perché mandare dei poveri turisti allo sbaraglio? Immagino che si siano chiesti i compilatori dell'ultima edizione della Guida del Touring. E, infine, per vedere che cosa? Se della tomba di famiglia dei Finzi Contini si poteva dire che era un orrore e sorriderne, sulla loro casa, isolata laggiù, fra le zanzare e le rane del canale Panfilio e dei fossi di scarico, e soprannominata invidiosamente la Magna Domus, su quella no, nemmeno dopo 50 anni ci si riusciva a sorridere. Oh, ci voleva ben poco per sentirsene ancora offesi. Bastava, che so, trovarsi a passare lungo l'interminabile muro di cinta che delimitava il giardino dal lato di corso Ercole I d'Este, muro interrotto circa a metà da un solenne portone di quercia scura, privo affatto di maniglie, oppure dall'altra parte, dalla cima della mura degli angeli imminente al parco, penetrare con lo sguardo attraverso l'intrico selvoso dei tronchi, dei rami e del fogliame sottostante, fino a intravedere lo strano, aguzzo profilo della dimora padronale, con dietro, molto più in là, al margine di una radura, la macchia bigia del campo di tennis, ed ecco che l'antico sgarbo del disconoscimento e della separazione tornava ancora a far male, a bruciare, quasi come da principio. «Che idea da nuovi ricchi! Che idea bislacca!» soleva ripetere mio padre stesso, con una specie di appassionato rancore ogni volta che gli capitava di affrontare l'argomento. «Sì, certo», ammetteva, «gli ex proprietari del luogo, i marchesi Avogli, avevano nelle vene sangue bluissimo. Orto e rovine inalberavano ab antiquo il molto decorativo nome di Barchetto del Duca. Tutte cose eccellenti, come no? Tanto più che Moisè Finzi Contini, al quale andava riconosciuto l'indubbio merito di aver visto l'affare nella conclusione del medesimo, non doveva averci rimesso che i proverbiali quattro baiocchi. Ma con questo, aggiungeva immediatamente, era proprio necessario, soltanto per questo, che già il figlio di Moisè, Menotti, detto non senza significato dal colore di un suo eccentrico cappottino foderato di martora, al matto Mugnaga, il matto albicocca, prendesse la decisione di trasferire la moglie Josette e se stesso in una parte della città così fuori mano, insalubre oggi, figuriamoci allora, e per di più così deserta, malinconica e soprattutto inadeguata. Il professor Ermanno e la signora Olga, tuttavia, lui un uomo di studi, lei una Herrera di Venezia, e cioè nata da famiglia sefardita ponentina molto buona, senza dubbio, però piuttosto dissestata e d'altronde osservantissima. Che razza di persone si erano ficcati in mente di essere diventati, anche essi? Dei veri nobili? Si capisce, la perdita del figlio Guido, il primogenito morto nel 1914, a soli 6 anni, in seguito a un attacco di paralisi infantile di tipo americano, fulminante, contro il quale nemmeno Corcos aveva potuto niente, doveva aver rappresentato per loro un colpo durissimo, soprattutto per lei, la signora Olga, che da allora in poi non aveva più smesso il lutto. Ma a parte questo, non c'era caso che dai e dai, a forza di vivere esclusivamente per loro conto, si fossero montata la testa anche essi, ricadendo nelle medesime, assurde fisime di Menotti Finzi Contini e della sua degna consorte? Altro che aristocrazia! Invece che darsi tante arie, avrebbero fatto assai meglio, almeno loro, a non dimenticare chi erano, di dove venivano. Se è positivo che gli ebrei, sefarditi e aschenasiti, ponentini e levantini, tunisini, berberi, iemeniti e perfino etiopici, in qualunque parte della terra, sotto qualunque cielo la storia li abbia dispersi, sono e saranno sempre ebrei, vale a dire parenti stretti. Il vecchio Moisè non si dava mica arie, lui. Non aveva mica fumi nobiliari nel cervello. Quando stava di casa in ghetto, al numero 24 di via Vigna Tagliata, nella casa dove, resistendo alle pressioni dell'altezzosa nuora trevigiana, impaziente di traslocare al più presto al barchetto del duca, aveva voluto ad ogni costo morire, andava lui stesso a far la spesa ogni mattina in piazza delle Erbe, con la sua brava sporta sotto il braccio. E sì che era stato proprio lui, soprannominato appunto per questo, al Gat, a tirare su dal niente la famiglia. Perché se era in dubbio che la Josette fosse scesa a Ferrara facendosi accompagnare da una gran dote, consistente ad una villa nel Trevigiano affrescata dal Tiepolo, d'un ricco assegno e di gioielli, si intende di molti gioielli, che alle prime del comunale, contro lo sfondo di velluto rosso del palco di proprietà, attiravano su di lei, sulla sua fulgida scollatura, gli sguardi dell'intero teatro, non meno in dubbio era che fosse stato al Gat, soltanto lui, a mettere insieme nel basso ferrarese, tra Codigoro, Massa Fiscaglia e Iolanda di Savoia, le migliaia di ettari sui quali si fondava ancora oggi il grosso del patrimonio familiare. La tomba monumentale al cimitero. Ecco, l'unico errore, l'unico peccato, di gusto soprattutto, di cui si potesse accusare Moisè Finzi Contini. Ma poi, stop. Così, diceva mio padre. A Pasqua particolarmente, durante le lunghe cene che erano continuate a svolgersi a casa nostra anche dopo la morte del nonno Raffaello e a cui convenivano parenti e amici in una ventina, ma anche a Kippur, quando gli stessi parenti e amici tornavano da noi per sciogliere il digiuno. Ricordo però una cena di Pasqua nel corso della quale, alle solite critiche, amare, generiche, sempre le stesse, e fatte soprattutto per il gusto di rievocare le vecchie storie della comunità, mio padre ne aggiunse di nuove e sorprendenti. Fu nel 1933, l'anno della cosiddetta infornata del decennale. Grazie alla clemenza del duce, che d'un tratto quasi ispirato aveva deciso di aprir le braccia ad ogni agnostico o avversario di ieri, anche nell'ambito della nostra comunità il numero degli iscritti al fascio era potuto salire di colpo al 90%. E mio padre, che sedeva laggiù, al suo posto abituale di capotavola, al medesimo posto da cui il nonno Raffaello aveva pontificato per lunghi decenni con ben altra autorità e severità, non aveva mancato di compiacersi dell'evento. Aveva fatto benissimo, il rabbino dottor Levi, diceva, ad accennarne nel discorso da lui pronunciato di recente a sinagoga italiana, quando, alla presenza delle maggiori autorità cittadine, del prefetto, del segretario federale, del podestà, del generale di brigata comandante del presidio, aveva commemorato lo statuto. Eppure non era del tutto contento, il papà. Nei suoi occhi azzurri di ragazzo, pieni di ardore patriottico, leggevo un'ombra di disappunto. Doveva aver individuato un inciampo, un piccolo ostacolo imprevisto e sgradevole. E difatti, avendo cominciato a un certo punto a contare sulle dita quanti di noi iudim ferraresi, fossero ancora rimasti fuori, ed essendo infine venuto a Ermanno Finzi Contini, il quale non aveva mai preso la tessera, è vero, ma in fondo, tenuto anche conto del cospicuo patrimonio agricolo di cui era proprietario, non s'era mai capito bene perché, improvvisamente, come seccato di sé medesimo e della propria discrezione, si risolse a dar notizia di due fatti curiosi, fra loro magari senza rapporto, premise, ma non per questo meno significativi. Primo, che l'avvocato Geremia Tabet, quando, nella sua qualità di sansepolcrista e di amico intimo del segretario federale, si era recato apposta al barchetto del duca per offrire al professore la tessera già intestata, non soltanto se l'era veduta restituire, ma di lì a poco, molto gentilmente, certo, però altrettanto fermamente, era stato messo alla porta. «E con che scusa?» domandò qualcuno flebile. «Non si era mai saputo che Ermanno Finzi Contini fosse un leone. Con che scusa ha rifiutato?» rise mio padre con violenza. Con qualcuna delle solite, che lui è uno studioso, vorrei poi sapere di quale materia, che è troppo vecchio, che in vita sua non si è mai occupato di politica, eccetera, eccetera. Del resto è stato furbo l'amico. Deve aver notato la faccia nera di Tabet e allora Zack gli ha fatto scivolare in tasca 5 carte da 1.000. 5.000 lire. Precisamente. Da devolversi a favore delle colonie marine e montane dell'Opera Nazionale Balilla. L'ha pensata bene, no? Ma state a sentire la seconda novità, piuttosto. E passò a informare la tavolata come qualmente il professore, alcuni giorni avanti, con lettera fatta per venire al Consiglio della Comunità per tramite dell'avvocato Renzo Galassi Tarabini, poteva scegliersi un legale più collotorto, più baciapile, più alto di così, avesse chiesto ufficialmente il permesso di restaurare a proprie spese, per uso della famiglia e degli eventuali interessati, l'antica piccola sinagoga spagnola di via Mazzini, da almeno 3 secoli sottratta al culto e adibita a magazzino di sgombero. Sandro Lombardi ha letto Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, chiocciolarai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.